Lo sciopero a stradella dei lavoratori della logistica è iniziato il 1° di marzo. La situazione a Città del Libro non è insomma proprio idilliaca, e questo da parecchio tempo. Lo stabilimento è stato aperto a ottobre del 2010 e praticamente già dall'anno dopo sono cominciati a venire fuori dei grossi problemi per quanto riguardava la situazione dei lavoratori. Le due inchieste più grandi e più, diciamo, che hanno fatto più rumore, più o meno poco rumore, sono quelle dell'anno scorso e quella del 2017. Che cosa succede a Stradella? I lavoratori entrano in sciopero, pare solamente per un adeguamento del contratto, per la stabilizzazione di alcuni lavoratori che in questo momento erano in bilico, diciamo. Che cosa è successo prima? Prima è successo che nel 2017 scoppia la prima grande inchiesta su Stradella, a uno degli operatori delle cooperative di Stradella vengono sequestrati circa 9 milioni di euro e 150 immobili, con degli addebiti, delle accuse da parte della procura molto molto pesanti. Quindi si parla di caporalato, insomma caporalato è uguale tanto che si verifichi nelle campagne di Rosarno per la raccolta delle arance, oppure a Foggia per quella dei pomodori, caporalato anche alla Città del Libro di Stradella, che ricordiamo impiega più di 800 operatori della logistica. Ma insomma questa non è l'unica inchiesta che c'è stata negli ultimi anni. Un'altra inchiesta molto molto pesante è venuta fuori ad aprile del 2017, si scopre che 70 lavoratori di Stradella vengono impiegati con diciamo un contratto, firmando un contratto in romeno, e vengono pagati in valuta romena, contratti per una paga media di circa 300 euro al mese. Com'è possibile tutto questo? Possibile perché la, diciamo, stazione appaltante centrale, che è Ceva Logistics, dispone di una serie di cooperative a cui subappalta il lavoro che si deve fare a Stradella, e queste cooperative hanno praticamente mano libera, una mano tanto libera da appaltare a loro volta l'assunzione dei lavoratori a un'agenzia interinale romena, che quindi spedisce i contratti in romeno, paga lavoratori italiani in romeno. Queste sono solo le ultime due grandi inchieste, però come dicevo prima, insomma, di agitazioni a Stradella ce ne sono state tante, anche negli ultimi anni, ogni volta che si sente parlare di sciopero bianco dei lavoratori della logistica, dell'editoria, quasi sempre si tratta di agitazioni sindacali nello stabilimento di Stradella, perché come dicevi tu è uno stabilimento che mobilita decine di milioni di libri l'anno, e da cui passa praticamente più della metà della distribuzione del mercato dell'editoria letteraria italiana. Le dinamiche che ci hai raccontato di Stradella sono molto simili alle dinamiche che avvengono anche negli altri settori della logistica che abbiamo visto negli ultimi anni, in particolare con le cooperative spurie e questo, appunto, questo sistema che genera sfruttamento. Ma la domanda che ti faccio, visto che sei un libraio, insomma conosci un po' anche tutta la filiera, cosa produce questo sistema? Perché si arriva a questo sistema? Ma si arriva a questo sistema fondamentalmente perché la distribuzione è il segmento dell'industria editoriale italiana che si mangia più della metà di tutti i guadagni. Quindi per quanto riguarda la distribuzione, solo gli attori della distribuzione editoriale muovono il 55% circa di tutti i soldi che si muovono intorno all'editoria italiana, che ricordiamo è sempre abbastanza, diciamo, presa a bastonate come settore industriale, ma è la prima economia culturale del nostro paese, quindi più del cinema e più di tanti altri settori. I problemi vengono quando c'è un accentramento totale, quasi un regime di monopolio. In questo momento in Italia l'attore protagonista della distribuzione è Messaggerie Libri, che nel giro di qualche anno è andata via via fagocitando tutti quanti gli altri distributori. Qualche anno fa una parte di editoria, tra virgolette, indipendente aveva provato a creare un sistema alternativo, un attore alternativo che era PDE, ma in quel caso anche PDE è stato prima comprato da Feltrinelli e poi inglobato anche dal sistema distributivo di Messaggerie. Messaggerie è, diciamo, un comparto del gruppo editoriale Mauri Spagnol di GEMS. Messaggerie è proprietario per esempio di IBS, Messaggeria è proprietario di un'altra serie di grossisti editoriali come per esempio Fastbook, quindi diciamo la ricostruzione è presto fatta. Nel momento in cui c'è un accentramento così importante nel segmento che genera più movimentazione di soldi e ricavi di tutta la filiera, ecco che cosa succede. Tu nel tuo pezzo segnalavi il sostanziale silenzio degli editori di fronte a queste notizie. Gli editori tacciono perché ci guadagnano da questo sistema? Gli editori tacciono per tanti motivi, io non lo so, forse cioè no, qualche idea in testa ce l'ho, però non mi arrischio a fare diciamo delle ipotesi o dei teoremi. Per quello che posso saperne io, e la mia critica era fondamentalmente indirizzata non a tutti gli editori, perché capisco che i grandissimi gruppi come Mondadori, come la stessa Gems o diciamo come anche Giunti non abbiano nessun interesse a andare a mettere il dito in un ginepraio del genere. Mi riferivo fondamentalmente ad ADEI, che è l'associazione degli editori indipendenti, che sono usciti dall'associazione di categoria che è l'AIE qualche anno fa, quando ci fu la grossa querelle tra Salone del Libro di Torino e Tempo di Libri a Milano, quindi quando l'AIE decise di non andare al Salone del Libro di Torino per preferirgli Tempo di Libri di Milano. Allora ci fu una prima frattura e una serie di editori, penso a Nutrimenti, penso a Minimum Fax, Sur, Marcos y Marcos, uscirono da AIE, erano già riuniti in un osservatorio che si chiamava allora ODEI, Osservatorio degli Editori Indipendenti, qualche tempo fa si sono riuniti in un'associazione alternativa all'AIE che si chiama ADEI, proprio quindi Associazione degli Editori Indipendenti. Io ce l'avevo più che altro con loro, ci ho avuto anche un brutto scambio su Facebook con ADEI, perché mi sembrava e mi sembra molto strano che gli editori che hanno fatto della pulizia, dell'etica, della, diciamo, dell'importanza della proposta culturale e degli editori che al loro interno hanno degli intellettuali che molto si spendono per questioni di questo tipo, siano rimasti in un sostanziale silenzio. Questo fa pensare, e questo accade perché, come dicevamo prima, Messaggerie non è solo un operatore distributivo, Messaggerie è un operatore finanziario. Qualche editore di ADEI mi ha fatto notare poi in privato, in discussioni o in diciamo chiacchiere sempre su Facebook, però sotto mentite spoglie diciamo, che Messaggerie tiene tutti un po' per le palle, perché controlla i flussi finanziari e di cassa non solo degli editori ma anche delle librerie, per cui è molto difficile far scattare una solidarietà dritta con i lavoratori quando anche gli editori e le librerie sono diciamo sotto scacco tra virgolette. Eppure proprio le librerie a partire da quel post su Medium sono state quelle che sono sembrate molto più solidali, molto più partecipi, con molta più voglia di chiacchierare, di discutere del problema. Ti volevo chiedere anche se l'e-commerce che si sta sviluppando molto insomma anche in Italia negli ultimi anni, penso ad Amazon, hanno in qualche modo contribuito ad accelerare le dinamiche che stiamo denunciando? Non so se direttamente, sicuramente quello che riesce a fare per esempio Amazon con la sua velocità e con la scontistica che riesce ad applicare cambia le abitudini di consumo dei lettori, clienti, consumatori, quindi quando io posso ordinare un libro alle 3 di notte dal mio telefono, direttamente dal mio letto e vedermelo ricapitare nel giro di poco più di 24 ore, le abitudini al consumo cambiano. Cambiando le abitudini al consumo, cominciando a ragionare veramente anche se da lettori solo come consumatori, sicuramente la bilancia comincia a pendere solo da una parte, si vuole tutto molto velocemente e anche a basso prezzo. Si può avere, perché Amazon dimostra che si può avere, però il prezzo della differenza tra aspettare qualche giorno in più e pagare un libro a prezzo pieno, lo pagano i lavoratori. Infatti volevo farti un'ultima domanda proprio sul ruolo dei lettori, visto che insomma ci occupiamo spesso anche da queste frequenze di consumo critico, del ruolo che possono avere i lettori. Che consiglio da libraio ti sentiresti di dare? In questo caso nessun consiglio diretto, perché come abbiamo visto anche acquistare in librerie indipendenti invece che comprare i libri su Amazon c'ha il suo prezzo, perché comunque Stradella e la Città del Libro servono anche le librerie indipendenti. L'unico consiglio che mi sento di dare è tenere gli occhi aperti e le antenne dritte, perché il settore della logistica è un laboratorio cui si sperimentano i metodi di sfruttamento più all'avanguardia dei lavoratori, perché ci troviamo di fronte a lavoratori senza specializzazione. Nel caso di Ceva c'è stato anche un lungo percorso prima che i sindacati potessero cominciare a lavorare in maniera continuativa all'interno dello stabilimento, e quindi insomma ogni volta che qualcuno ci propone qualcosa molto velocemente e con un grosso sconto, come dicevo prima, bisognerebbe andare a capire dove tutta quella convenienza, sulle spalle di chi tutta quella convenienza si scarica.